24 mattino. Sarà così, ancora il tema del lavoro a dominare questa mattina sulle prime pagine dei giornali. 7:17 minuti, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, prontissimi con i giornali di questa mattina, come sempre per una veloce carrellata e poi leggeremo insieme quello che scrivono oggi i quotidiani. Il Sole 24 Ore, dicevo, scontro rinviato al Senato, fiducia sul decreto lavoro, Renzi dice polemiche da campagna elettorale, serve l'ok, oggi ci sarà il voto alla Camera. Con il nuovo centrodestra e Scelta Civica che parlano solo di tregua, il nodo del contendere, contratti, apprendistato, troppe rigidità. Tensioni nel governo sul lavoro, così titola il Corriere della Sera, taglio centrale dedicato invece al salvataggio di Alitalia, la frenata di Etihad per lo scoglio dei debiti. La Repubblica, anche qui scontro sul lavoro, Renzi, basta attacchi dai soloni milionari, così titola quest'oggi la Repubblica. Il giornale, la CGIL ordina, Renzi obbedisce, anche qui la riforma del lavoro. Sulla prima pagina del giornale campeggia anche un'immagine di Papa Francesco, un Francesco star da Oscar al cinema e Papa Mania, in arrivo tre firme su Bergoglio, Sorrentino è pronto a girare una serie sulla sua giovinezza, così racconta il giornale. Libero, anche qui l'apertura dedicata ancora al lavoro, Renzi si piega alla CGIL, la stessa linea del giornale, il premier obbedisce ai diktat di Camusso e Landini e spiana Alfano, così scrive Libero. L'Unità, lavoro, Renzi ferma Alfano, invece la lettura dell'Unità, il nuovo centrodestra si piega, diremo sì, ma al Senato sarà battaglia. E poi il Quotidiano Nazionale, anche qui l'apertura dedicata al lavoro, rissa sul lavoro, Alfano furioso per le modifiche, lavoro e riforme, Renzi alza la voce anche per Avvenire. E poi ancora, non solo lavoro ma anche tagli, altri tagli in arrivo, le regioni in rivolta, titola La Stampa, il quotidiano torinese ricorda che domani le regioni si riuniranno, i presidenti delle regioni che dicono no a nuovi sacrifici, la sanità è già all'osso, ma poi anche qui ricorda decreto lavoro, Renzi deve mettere la fiducia. Ecco altri tagli sul Messaggero, tagli annunciati, ministeri, ecco i nuovi tagli, la scuda di Renzi riduce i budget di altri 200 milioni. Il Fatto Quotidiano, non c'è traccia del lavoro in prima pagina, ma c'è traccia invece della vicenda all'Italia. L'Italia è in ginocchio dagli arabi, il prezzo 3.000 licenziamenti, così scrive il Fatto Quotidiano. Il Manifesto, la bella piazza, torna sull'intervista, l'abbiamo sentita ieri, di Alfano al Messaggero. Alfano torna ad attaccare a senso unico le violenze nei cortei e minaccia la chiusura preventiva del centro di Roma. I movimenti protestano, manifestazione nazionale il 17 maggio, torneranno in piazza, la bella piazza, così scrive il Manifesto. La Padania va avanti in quella che ormai è diventata la sua battaglia su contro Mare Nostrum, Alfano crociere Mare Nostrum nella bufera. Stop secret, il segreto di Stato, che poi non è segreto di Stato tecnicamente, tolto ieri dal Presidente del Consiglio, l'apertura per il secolo XIX. Una carrellata, ma indubbiamente è il tema del lavoro e dello scontro oggi alla Camera, poi rinviato al Senato sul lavoro, il tema centrale. Allora cominciamo dal Corriere della Sera, con Massimo Franco che scrive: il paradosso è che oggi il decreto sul lavoro verrà approvato dalla Camera perché il governo ha posto la questione di fiducia, ma tra pochi giorni probabilmente sarà cambiato al Senato perché uno dei partiti della maggioranza è contrario. Ecco perché scontro via via solo rinviato. A pagina 3 del Corriere della Sera c'è Francesco Verderami che rivela anche un retroscena e lo sfogo del ministro Poletti. Con chi? Con Sacconi, ex ministro dei governi berlusconiani e ora in commissione lavoro. Avete ragione, cambieremo, così avrebbe detto Poletti. Allora leggiamo Francesco Verderami. Dopo il patatrac, Poletti, che è il padre della riforma, si è sfogato con Sacconi. Avete ragione, abbiamo ragione, vorrà dire che cambieremo il testo al Senato. Nel frattempo, magari a Palazzo Chigi si mediterà più approfonditamente se sia il caso di offrire a Damiano la prestigiosissima poltrona dell'INAIL, scrive Francesco Verderami, o addirittura quella dell'INPS. Una cosa è comunque certa, l'esecutivo non rischia nulla. Ce n'è traccia in un SMS inviato da Alfano in mattinata ai capigruppi del nuovo centrodestra alla vigilia della riunione di maggioranza. Sarò in aereo per un paio d'ore, evitate nel frattempo di fare cadere il governo, aveva scritto per evitare sorpresa. Risposta a stretto giro della De Girolamo: Angelino, stai sereno. E con gli stai sereno ognuno pensi un po' quel che vuole. Il tema del lavoro, scontro o non scontro, tema elettorale o questioni invece nel concreto del provvedimento, il Foglio oggi punta l'attenzione su un'altra questione. Ecco perché la vera sfida di Renzi, scrive il Foglio, sul lavoro non è con Alfano ma con la CGIL. E scrive il Foglio: mentre tutti sono concentrati sui bisticci tra Alfano e Renzi, nessuno si sta accorgendo di quello che questo governo sta facendo. Stiamo abolendo l'articolo 18. Una sospensione dell'articolo 18, non totale ma relativa ai 3 anni di contratto a termine, ma contiene comunque un elemento di verità nella misura in cui la voce del sindacato ha condizionato fino a un certo punto l'iter della riforma. Ed è proprio su questo che si scagliano oggi Libero e il Giornale. Sentivamo prima, la CGIL ordina, Renzi obbedisce, Renzi si piega alla CGIL. E allora ecco cosa scrive Alessandro Sallusti sul Giornale. Sono pochi i temi che devono segnare un solco invalicabile tra centrodestra e centrosinistra. Le politiche in materia di lavoro sono tra queste. E continua Sallusti: Vendole la CGIL, siamo le solite, neppure Renzi è capace di riformare nei fatti quel mondo arcaico che è la sinistra italiana, se la fa sotto tanto da porre oggi la fiducia sulla legge del lavoro per evitare di cadere in aula come una pera cotta. Camusso ordina appunto e Renzi obbedisce. Insomma, solo battaglia politica, battaglia con Alfano, battaglia invece all'interno della sinistra. Il Sole 24 Ore, anche il Sole 24 Ore oggi dedica il commento a questo, lo firma Alberto Rioli, la campagna elettorale e il lavoro che non c'è. C'è un errore, prima di tutto, scrive Alberto Rioli, un errore culturale nel compromesso sul decreto lavoro realizzato alla Camera, l'idea che le sanzioni facciano occupazione. Ed è tanto più stridente quanto più si intuisce come invece servirebbero regole e un fisco più leggero per intercettare al meglio il vento della ripresa. Questo nel merito, ma poi lo scontro, scrive Alberto Rioli. È chiaro come il lavoro sia tema perfetto per le campagne elettorali. Il parziale smontaggio del decreto Poletti, realizzato in commissione a Montecitorio, è un tributo pagato al voto del 25 maggio e al regolamento dei conti intorno al PD, che in modo simmetrico si specchia in quello tra Nuovo Centrodestra e Forza Italia. E insomma, più che di lavoro si parla ancora di scontri politici che siano da una parte o dall'altra. E allora, scontro è sul lavoro, e poi ci sono anche gli scontri invece a margine su quello che è il ruolo del Presidente del Consiglio. Ancora questa partita che si deve o non si deve giocare, la partita di calcio, di emergency, contro cui sta puntando dritto il Fatto Quotidiano. Altro che partita del cuore, Renzi gioca, rissa sugli spalti, partita di beneficenza allo Stadio Franchi di Firenze con i giocatori della Fiorentina, con Matteo Renzi che vorrebbe essere in campo, ma che dovrebbe essere trasmessa in diretta dalla RAI pochi giorni prima del voto, e quindi stando al regolamento e alla par condicio non si può. Politica nel pallone, scrive il Fatto Quotidiano, confermata per ora la diretta RAI per il Premier in campo a 6 giorni dalle elezioni, nonostante le regole della par condicio. E allora andiamo nelle pagine interne del Fatto Quotidiano con un divertente Andrea Scanzi: calzoni corti e pance, il gioco è qui, scrive. La partita del cuore a sei giorni delle europee, scrive Andrea Scanzi, rischia di essere più un boomerang che uno spot per Matteo Renzi. In questi giorni sfilano le foto del presidente e del consiglio in versione calciatore ed è uno spettacolo mediamente avvilente. Renzi è ritratto col volto trasfigurato dalla fatica, la lingua penzoloni tipo Fantozzi e una pancia fieramente prominente. Rispetto a quegli scatti, oltretutto la forma fisica del presidente è nel frattempo peggiorata. E poi scrive ancora Andrea Scanzi: già sfiancati da crisi economiche e ideologiche, gli italiani hanno dovuto pure scontare la pena di D'Alema sudato in calzoncini corti, Mastella in calzettoni trucidi, alla carrellata calciofina non sono mancati Walter Veltroni e la Trimurti post fascista Finis Gasparri e Storace, uniti in un parossismo di chi lo caldi tesi, come tanti virilissimi blisse di destra. Il politico italico si atteggia calciatore perché è quasi sempre la sua vera passione, perché spera che fingersi giovane e magari un po' autoironico gli faccia gioco. In realtà rischia di essere un autogol. Che sia o non sia così, di sicuro la polemica c'è, le chiacchiere anche, e allora sulla Repubblica non perde l'occasione di scriverne. Andiamo nelle pagine interne, pagina 10 della Repubblica, anche Sebastiano Messina che una soluzione sembra trovarla. La prima dice: la lottizzazione, 6 maglie alla maggioranza, 5 all'opposizione. La seconda la censura, partito indifferita cancellando i palloni toccati dal Premier. La terza, faccia a faccia in campo, convincendo i cantanti ad affidare a Grillo la marcatura di Renzi. E infine la quarta, la più drastica, far arbitrare la partita a Casaleggio. Ognuno scelga la sua, per noi c'è un attimo di pausa e poi torniamo ancora sui giornali in edicola. 24 mattino. E allora, abbiamo lasciato poco fa il Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano torniamo per un'altra notizia che c'è oggi su tutti i giornali. Tra gli altri, leggevamo prima il centro pagina del Corriere della Sera, ma vediamo appunto sul Fatto Quotidiano che decide di aprirci e che è ancora una volta la partita di Alitalia. Questa volta Alitalia in ginocchio dagli arabi, il prezzo 3.000 licenziamenti, scrive senza mezzi termini quest'oggi il Fatto Quotidiano. L'amministratore delegato del Torchio presenta al CDA le richieste di Etihad in cambio del salvataggio della società, che altrimenti fallirebbe un'altra volta. Il gruppo di Abu Dhabi, oltre ai tagli drastici al personale, pretende garanzie sulle perdite e sui contenziosi, ma anche l'ingresso nella società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino e l'addio allo scalo di Malpensa. E quindi la partita è ben più che sulla sola Alitalia. Quei patrioti che ogni giorno hanno bruciato 700.000 euro, così scrive e fa i conti il Fatto Quotidiano. A pagina 3 Daniele Martini scrive, leggiamo: dopo aver eseguito la verifica sui conti di Alitalia, gli arabi conoscono le condizioni in cui versa la compagnia e sanno di poter impugnare il coltello dalla parte del manico. Senza il loro ingresso, l'azienda italiana muore in 2 secondi strangolata dai debiti. Con il loro ingresso campa ma sottomessa. Loro arabi, al contrario, senza l'Italia posso vivere bene e crescere in Europa e nel mondo. Alla prova dei fatti, rispetto ai francesi, ricordate la partita contro cui si schierarono i patriotti, rispetto ai francesi, gli arabi si stanno dimostrando negoziatori più spietati. E comparando l'oggi con il 2008 è come se l'Italia fosse caduta dalla padella nella brace. Così il Fatto Quotidiano racconta quella che è una partita tutt'altro che chiusa, ma sicuramente non facile per l'Italia. Tagli, tagli, tagli, torniamo ai conti non di Alitalia ma dello Stato italiano. Renzi l'ha detto venerdì scorso: niente tagli alla sanità, non ci saranno, ecco, ci sono le coperture. Ebbene, oggi due quotidiani tornano a parlare di tagli, uno è La Stampa di Torino, tagli le regioni in rivolta, e l'altro è Il Messaggero, ministeri, ecco i nuovi tagli. Cominciamo dalla Stampa di Torino: domani riunione dei presidenti, scrive il quotidiano torinese, no a nuovi sacrifici, la sanità già all'osso. Che succede? Andiamo a pagina 5 della Stampa. La rivolta delle regioni che dicono è impossibile tagliare ancora. Devono contribuire però invece alla spending review con 700 milioni. L'80% del loro bilancio è speso per la salute. E dunque, dice la Stampa, se devono contribuire con 700 milioni al risanamento dei conti, ma l'80% dei loro conti riguarda la salute, i tagli non potranno che essere la sanità. I presidenti si riuniscono domani, sono pronti a dare battaglia. Abbiamo però già ridotto all'osso, dice ancora la Stampa. Sentire loro, non c'è più nulla da tagliare. Sentire le regioni virtuose, le forbici dovrebbero virare verso sud, perché chi è stato bravo va premiato, così dice ad esempio il governatore del Veneto Zaia. Viceversa, chi sta cercando di risalire la china da situazioni difficili respinge l'accusa al mittente con la logica diametralmente opposta e ugualmente ferrea. Tagliare sui bilanci ordinari è difficile per tutti, è un po' più facile per chi, come il centro-nord, dà più servizi. Dunque, chi taglierà i famosi 700 milioni? Domani sicuramente la battaglia sarà aspra. I bilanci intanto delle regioni, perché sono come al solito divisi a metà. In mezzo ci sta una Lombardia che ha lo 0%, conti sostanzialmente in equilibrio, ma c'è chi come l'Abruzzo è in attivo addirittura di 53, il Veneto, le Marche sono in attivo, l'Umbria, il Piemonte, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia. E poi ecco invece le regioni in rosso: la Toscana, la Liguria, la Calabria, la Sicilia, ma soprattutto la Campania, meno 121, la Sardegna meno 212 e il record resta al Lazio, meno 644. A chi toccherà tagliare i conti? Tagli che, secondo il Messaggero, arriveranno anche per i ministeri. Gli ultimi nodi sono stati sciolti ieri sera, scrive il Messaggero, in un incontro tra Renzi e il ministro dell'Economia Padoan. Nuovi tagli a sorpresa per i ministeri. Nel decreto IRPEF spunta una nuova cura dimagrante. La scura riduce i budget di altri 200 milioni. Ci saranno 60 giorni anche qui per indicare i risparmi, con una riorganizzazione e tagli ai dirigenti per spendere meno. E dunque, altra scura di tagli in arrivo. Siamo sul Messaggero e sul Messaggero restiamo, perché voltiamo però pagina e a centro pagina il Messaggero torna su una vicenda di cui molto abbiamo parlato, ma probabilmente ancora molto c'è da parlare, ed è quella degli embrioni scambiati all'ospedale Pertini di Roma. Sembrava tutto fatto, al di là della vicenda personale che naturalmente resta quanto mai complessa. Una coppia che aspetta due gemelli, figli però geneticamente di un'altra coppia, per un errore durante il procedimento della fecondazione. Ebbene, l'inchiesta si allarga agli ultimi 6 mesi, scrive ora il Messaggero. In ASL Pertini di Roma, al setaccio altri casi di genitori sottoposti alla fecondazione. 6 mesi di attività al Pertini di Roma per il caso degli embrioni scambiati nel mirino altri genitori, con l'obiettivo di capire che cosa sia accaduto a dicembre. Qualcuno per errore ha invertito le provette. Tra le ipotesi su cui stanno lavorando in AS, così scrive oggi il Messaggero, c'è anche che qualcuno si sia accorto dell'errore ma l'abbia tenuto nascosto. E comunque le indagini stanno tornando indietro agli ultimi 6 mesi. A fianco sul Messaggero un'altra notizia, invece la trovate anche sulle altre pagine dei giornali: test di medicina, il caso di Bari, l'avrete sentito anche da Radio 24 in questi giorni, voti bassi ai test di medicina, alti a Bari, e qui insomma la polemica c'è e non manca. Però il Messaggero punta ancora sicuramente sulla vicenda invece degli embrioni Albertini, che a quanto pare ancora ci farà discutere e parecchio. 7:39 minuti, lasciamo allora la stampa, il messaggero e i tagli per venire ad altri tagli di cui parlava invece la Repubblica ed è quella degli F-35. Ieri sentivamo l'idea, appunto, tagliamo gli F-35, allora potrebbero essere tagliati addirittura della metà, quindi sforbiciati alla grande, la città degli F-35. Il reportage oggi della Repubblica, che è andata a Cameri, la città dove si costruiscono questi jet, e il racconto dell'inviato Paolo Griseri così titola: se non da noi li farà la Merkel, perché questo è l'altro risvolto della medaglia: se gli F-35 non li compriamo da noi stessi, compreremo da qualcun altro e qualcun altro li farà. Se Cameri riduce la produzione, io non ho un'altra fabbrica in cui tornare, racconta uno degli operai a Paolo Griseri. Su 300 dipendenti della fabbrica caserma di Cameri non ci sono delegati sindacali con i quali trattare, li stiamo eleggendo, dicono. Lei non ha mai pensato che c'è lavoro e lavoro? Certo, ma ci sono lavori che bisogna fare. Oggi faccio il becchino, crede che sia un lavoro allegro? Lo so che produciamo armi da guerra, potrei dire non è un fatto che mi riguarda, io guadagno solo il pane, sarebbe ipocrita. Prima lavoravo nell'aeronautica civile, ora ho accettato di andare nel settore militare, ma d'altra parte, da qualche parte bisogna lavorare. Questo è l'altro risvolto della medaglia del taglio degli F-35. 7:41 minuti. Buongiorno Mauro Meazza, il Sole 24 Ore, eccoci. Ciao. Buongiorno. Mauro, a proposito di lavoro, mi immagino che tu mi chiami in causa, no? Come fa sempre Alessandro, a proposito di solito lui non è così elegante, diciamo. Noi oggi però mi dicono che l'hanno avvistato, che sta studiando tutto sul condominio, quindi lunedì lo trovi preparatissimo. Ecco, però gli dovresti dire, allora passagli anche gli appunti, perché oggi abbiamo anche uno speciale sulle start-up, quindi dovrebbe anche prepararsi su finanziamenti agevolati, sui crediti d'imposta che vengono assegnati per le start-up, oggi con il Sole 24 Ore, così con il condominio porta anche quell'altro. Se gli compito in classe lunedì, ma questo non glielo diciamo. No, questo non glielo diciamo, l'importante è che venga preparato, che non pensi solo a gozzovigliare. Così come deve venire preparato il governo col decreto IRPEF, perché abbiamo contato 41 provvedimenti di attuazione, cara Anna, quindi la lista dei 500 che dicevamo ieri sale a 541, speriamo che nulla si perda per strada, anche se la tradizione non ci è favorevole, per così dire. Non vanno benissimo le cose per l'Italia, sai che la trattativa è uno stallo, te ne parlavo già ieri, oggi continuiamo a riferire appunto di questo stallo delle trattative all'Italia e Etihad. E poi c'è una cosa che ti vorrei segnalare, un po' radiofisco qui, ma forse non è proprio radiofisco, c'è il mood da consegnare. Non so se tu mi segui su questo terreno, la dichiarazione per i produttori di rifiuti. Caspita. Il 30, so che lo sai. Sì, è già tutto pronto. Ecco, no, Alessandro non l'aveva assolutamente studiata questa cosa, sapeva che oggi sarebbe stata chiesta, infatti si è messo astutamente in vacanza. Però entro il 30 aprile c'è il mood e ne parliamo nell'inserto, nelle pagine di norme e tributi. Poi da domani una buona notizia, riapre il registro revisori. La questione è molto complessa, lì non possiamo annoiare gli ascoltatori adesso a quest'ora del mattino, però diciamo che da domani, perché però li mandiamo in edicola, perché sul Sole 24 Ore c'è tutto, li rinviamo senz'altro in edicola. E poi la fattura elettronica che accelera, che è il titolo principale di norme e tributi. Tu hai 2 euro come Alessandro o qualcosa di più, cara Anna? Facciamo anche 1,5. Uno e mezzo, perché ti volevo segnalare, guarda che il Portogallo torna sul mercato dei titoli di Stato, propone dei titoli di Stato, non so, naturalmente non è un... Non è un suggerimento, però. No, assolutamente, quelle sono cose serie. Noi lo segnaliamo come informazione di uscita dalla crisi, perché insomma cerchiamo anche di trovare delle buone notizie. Il Portogallo non se la passa benissimo, però questo passaggio di nuova emissione ci sembra invece un passaggio importante da segnalare. È una buona segnalare. Notizia. Sì, così come buona notizia, insomma, è la ripresa degli ordini dei robot, come dire, i robot vanno forte, i robot trovano lavoro, speriamo che poi il lavoro arrivi anche ad altri che non sono robot, arrivi anche agli umani. Hai visto mai che tutto questo possa portarci un po' bene? È il mio momento, Anna? È tutto tuo, ti lascio il microfono. È fantastico. Allora, grazie e traffico. Qualcosa di sinistra, la Repubblica sulla prima pagina di quest'oggi azzarda al titolo Qualcosa di sinistra, l'analisi di Guido Krainz. Questo è un tema su cui molto punta la Repubblica, ne parleremo anche noi questa mattina, Mattino 24 in versione da ponte che arriva fino alle 9:30, dopo le 9:30 ne parleremo anche noi, tolto il segreto di Stato, che poi non è segreto di Stato, cercheremo anche di capire. Per le stragi, documenti sulle stragi. Scrive oggi la Repubblica: il decreto che rende consultabili i documenti sulle stragi che hanno insanguinato il paese ha valore di grande rilievo concreto e simbolico, attiene a un vulnus profondo della nostra democrazia, può contribuire a renderla più trasparente su un versante decisivo e, se è lecito dirlo, una scelta di sinistra, ed è arduo parlare di facile ricerca di consensi elettorali. Questa è una scelta di sinistra, qualcosa di sinistra, così scrive la Repubblica. Ci sono ovviamente altri commenti, altre analisi, ne parleremo magari più avanti. C'è, perché c'è anche un'altra questione oggi sulla quale tornare e che è ancora che succederà a Silvio Berlusconi. Allora, tra i molti quotidiani che ne parlano, lo trovate anche su ovviamente Repubblica, Corriere della Sera, il Giornale, un po' dappertutto. Allora andiamo però sulla Stampa, pagina 7. Berlusconi, il giorno della libertà limitata, perché che succede? Oggi firmerà il decreto delle prescrizioni, dunque da oggi potrà spostarsi da Arcore solo con apposite autorizzazioni, quelle che sono state sentenze attese da oggi con questa firma. L'appuntamento alle 5 del pomeriggio a Milano, 100 metri in linea d'aria a San Vittore, come chiunque altro Silvio Berlusconi dovrà andare a questo punto a firmare, poi andrà nella famosa casa di riposo di Cesano Boscone, ma intanto da questa sera scatterà il divieto di rientrare a casa dopo le 23. Ed ecco così, un po' cattivella la Stampa mette l'accento su un paio di questioni. Uno, l'umore sempre nero, anche le 4 ore settimanali al centro anziani lo preoccupano, così avrebbero raccontato quelli vicini a Berlusconi in queste ore. E poi l'altra questione, stasera Porta a Porta, ma registrerà la puntata molto presto, anche più del solito, perché la verità viene spesso registrata Porta a Porta, ma la puntata molto presto nel pomeriggio, perché comunque qualunque cosa succeda deve rincasare entro le 23, e quindi primo fatto concreto per Berlusconi. Restando sulla Stampa, allora, le immagini non ve le ho ancora raccontate sulla prima pagina dei quotidiani di quest'oggi. Il quotidiano torinese ha una protesta, quella di cowboy e indiani insieme contro l'oleodotto. L'immagine appunto è a colori dei giorni nostri, ma sembra da altri tempi, indiani e cowboy, ma per una volta insieme. A Washington la battaglia degli ambientalisti per fermare il progetto congelato da Obama, la protesta contro l'oleodotto che dovrebbe trasportare il petrolio estratto dalle sabbie del Canada fino alle raffinerie texane, al centro di una battaglia tra lobby. E un'altra immagine invece di un'altra protesta, ma tutta italiana, sul Corriere della Sera: gli indiani d'Italia in piazza per il Marò, dal Veneto a Milano, dall'Emilia giù fino a Latina, le comunità degli immigrati indiani hanno fatto sentire la loro voce per chiedere al loro paese d'origine la liberazione di Massimiliano Latorre e Salvarone Girone, i due marò trattenuti in India dal febbraio del 2012. Cortei dei Sikh dalla Lombardia al Lazio, ingiusto trattenerli lì, così dicono gli indiani d'Italia. Sul Corriere della Sera c'è anche un'altra storia, la ricorderete, quella della ragazza, dell'avvocato sfigurata con l'acido dal fidanzato. Due maschere, il viaggio di Lucia per riprendersi la vita, il volume scritto dall'avvocato con la giornalista Giusy Fasano del Corriere della Sera, che quindi ne anticipa oggi qualche brano. Vi dico, è davvero impressionante, almeno il brano anticipato racconta di quando per la prima volta dopo l'operazione si è vista allo specchio. C'è uno specchio, la prima volta rivedo la mia faccia, come il maleficio di una fiaba, lo specchio mi restituisce un'immagine nella quale non mi riconosco. Mi studio per un po' di minuti in silenzio. Manca un pezzo, penso. Apro la bocca sfumando il concetto. Mi pare di vedere che questo naso non è un granché. Nessuno fiata. Sento addosso il peso delle sensazioni degli altri. Beh, secondo me con la frangia starei meglio. È la prima frase che mi viene in mente. Una bacchetta magica che spezza l'incantesimo. Solo un anticipo di un lungo racconto per un mese e mezzo di ricovero e una nuova faccia con due maschere, una per il giorno e una per la notte, per una faccia tutta da ricostruire. Una brutta vicenda e sicuramente toccante questo racconto. Sul Corriere della Sera, velocemente, allora abbiamo ancora un paio di minuti, c'è un'altra storia che riporta invece un grande a livelli un po' tra virgolette di tutti noi, e parla Anne Sinclair, che è tra l'altro moglie di Strauss-Kahn, ricorderete. Lui, il traditore, negava, era convinto, lei tradita non voleva crederci. Il racconto della Sinclair dopo i fatti, che hanno di fatto tolto di mezzo dalla politica francese il marito, e i racconti dei vari tradimenti, degli stupri, il desiderio di non credere ai tradimenti, così scrive oggi il Corriere della Sera. Anne Sinclair racconta di essersi sempre fidata di Dominique Strauss-Kahn, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, arrestato a New York nel maggio del 2011 con l'accusa di tentata violenza ai danni di una cameriera dell'hotel dove alloggiava. Il caso si chiuse pochi mesi dopo, ma la candidatura alle presidenziali francesi fu comunque bruciata. Il racconto più terra terra, più umano della moglie, il desiderio di non credere ai tradimenti. Parlavamo ieri di belli e di brutti, ricordate, no? Che il Corriere della Sera diceva fra 100 anni saremo divisi in due gruppi, belli e brutti. Ebbene, oggi c'è un'altra polemica che è in furia, ed è quella sul ministro Boschi, che a Vanity Fair ha detto: vorrei avere 3 figli ma sono single. Allora, Massimo Gramellini questa mattina sulla Stampa, e con questo chiudiamo. Chissà perché quando una donna bella dichiara di sentirsi sola si trasforma subito in una notizia. Ultimo caso, la ministra delle riforme Maria Elena Boschi, che rivela quanto le piacerebbe poter riformare almeno la sua esistenza trovando un marito e abrogando le tazze di latte bevute in solitudine davanti alla TV. Curioso e feroce il destino delle donne, scrive Gramellini. Crescono con l'idea che solo la bellezza e il successo le rendono felici. Appena raggiungono uno o entrambi gli obiettivi, si accorgono che il loro punto di vista è cambiato. Sentendosi all'apice, pretendono il massimo dal proprio compagno e di rado lo trovano, perché è ancora piuttosto difficile incontrare un maschio che accetti di stare accanto a una donna simile senza andare in crisi di identità. Inutile illudersi, così scrive Massimo Gramellini, la bellezza non dà la felicità, ma figuriamoci la bruttezza. E con questo chiudiamo anche oggi il giornale radio. Alle 8:15 parleremo invece di immigrazione e di Mare Nostrum.